Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Busy doing nothing, occupato a far nulla, l'inno dei giovani inattivi europei per cominciare in musica la nostra puntata. Ace Wilder, alias Alice Gernand, 32enne svedese, interpreta quella che è diventata la canzone simbolo di un'intera generazione di net. Purtroppo, tra loro, lo sappiamo moltissimi gli italiani. La colpa è delle generazioni precedenti che rifiutano di uscire di scena e continuano a gestire tutto anche se invecchiano e hanno ridotto il mondo come lo vediamo, accusa Ace Wilder in un'intervista alla Repubblica. E la frase della settimana è copyright di John Phillips, ambasciatore americano in Italia, rivolto a una platea di giovani ha detto: quando entrerete nel mondo del lavoro, la vostra sarà un'economia molto più dinamica. L'Italia ha bisogno di voi, ha bisogno dei giovani, delle sue menti migliori e ha bisogno che restino qui. Per Phillips, in Italia ci sono tante idee e creatività, dovete sviluppare, dice, voi giovani, una cultura imprenditoriale. Ultime notizie da un'Italia che, al contrario, fatica ancora troppo a cambiare. Le imprese a conduzione familiare presentano un grande problema di successione. Nel nostro paese solo il 9% delle aziende ha avviato processi di passaggio generazionale. Questo è il risultato di una ricerca PricewaterhouseCoopers che parla di emergenza. Le imprese che hanno stabilito un processo di successione sono poco più della metà rispetto alla media mondiale. Il 58% non ha neppure affrontato il tema. Inoltre, se nel resto del mondo le imprese a conduzione familiare avvertono la necessità di introdurre competenze professionali esterne per sopportare la pressione competitiva e gestire la trasformazione digitale, in Italia i membri delle famiglie sono impegnati in prima linea nel guidare il rilancio, ma spesso i giovani ricoprono subito posizioni di vertice senza adeguata preparazione. Dall'impresa alla cultura, oggi puntata in musica classica. Ci sono fortunatamente ancora paesi dove lavorare in questo settore non è considerato un hobby. La musica, così come l'arte, potrebbe essere uno dei veri tesori del nostro paese. Io ho un po' paura che la fonte del problema sia una grande ignoranza. Margherita Colombo, 33 anni, è una direttrice d'orchestra e solo repetitore in distanza a Lipsia, in Germania. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziario. Il 90% dei giovani è disposto a lasciare l'Italia per studiare o lavorare all'estero. Il dato emerge da un'indagine KPMG su un campione di 800 laureandi e neolaureati 23-25 anni. Sempre più forte la propensione a lavorare oltre confine, mentre nei giovani si fa strada una certa disillusione verso il posto fisso. Il 45% ritiene che durante la propria carriera lavorativa cambierà impiego oltre 3 volte. Conferma una ricerca Coldiretti XE, meno della metà dei giovani italiani ambisce ad avere un posto fisso. Quasi un giovane su 3 vuole lavorare autonomamente. L'arrivo di italiani in Australia supera da 2 anni il livello dell'emigrazione di massa degli anni 50, con una presenza che si sta trasformando da temporanea a permanente. Questo è il panorama che emerge dal rapporto L'immigrazione giovanile italiana in Australia del gruppo Australia Solo Andata. Al 30 giugno erano presenti in Australia quasi 21.000 italiani con visto di residenza temporaneo, un incremento del 62% in un biennio. E sempre in tema di migranti andiamo ad approfondire una ricerca che riguarda gli emiliano-romagnoli espatriati. Ne parliamo con Paola Tabanelli, antropologa e collaboratrice del rapporto Italiani nel Mondo. Ascoltiamo l'identikit che ne traccia, rivelando ancora una volta come l'immigrazione, anche a livello regionale, sia un fenomeno in decisa crescita. Negli ultimi anni sono in continuo aumento, quindi diciamo che sono verso le 5.500-6.000 unità. Però appunto dalla ricerca è emerso che la cancellazione all'AIRE non avviene nel momento proprio della partenza, ma avviene dopo qualche anno che già si abita all'estero, per cui questo dato non rispecchia esattamente le partenze, ma rispecchia la sorta di stabilizzazione. Quindi i numeri chiaramente sono sottostimati, e sull'età invece? Sull'età dopo la laurea, quindi dai diciamo 25-27 fino ai 30 anni. Quindi ancora giovani, parliamo di giovani fondamentalmente che emigrano. Sì, e di solito migrano con un obiettivo ben preciso, non vanno in un luogo a caso, ma vanno in un luogo che hanno precedentemente selezionato con cura. Paesi di approdo? Paesi di approdo sono un po' i soliti: Germania, Stati Uniti e Inghilterra.

4 coordinatori nazionali per l'Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco di Baviera, laurea in legge o scienze politiche, scadenza per CV 29 novembre, info su epo.org/jobs. E infine una posizione da group leader al centro di ricerca sull'infiammazione molecolare dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia Trondheim, scadenza per CV 4 gennaio, info su ntnu.edu. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi portiamo in un paese tra i meno battuti e percorsi dalla nostra trasmissione, la Turchia, e in un'area particolare di questo paese, quella delle coste dell'Egeo. Lì è nato, alcuni mesi fa, un giornale online dedicato alla comunità italiana, Simone Favaro, cofondatore de Il Nuovo Levantino. Nasce perché ci siamo accorti che mancava un organo di informazione per gli italiani che vivono qui nell'area, nella regione dell'Egeo. Quali notizie trattate all'interno del Nuovo Levantino, utili anche per la comunità italiana? Trattiamo notizie che vanno dalla cultura ai eventi culturali che avvengono in città e nell'area, economia e tessuto imprenditoriale. Parliamo proprio di questa comunità italiana in Turchia, ma più nello specifico sul Mar Egeo. Ci sono dei numeri? I numeri ufficiali che arrivano dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'AIRE, parlano di 900 italiani registrati all'AIRE che abitano nella regione Egeo. Ovviamente questo è un numero parziale, quindi possiamo stimare quantomeno il doppio, all'incirca 1.800-2.000 italiani che abitano nella zona. Vi siete fatti un'idea se siano italiani, diciamo, di vecchia emigrazione o stiano arrivando anche dei giovani? A partire proprio dal 2010 è aumentato l'arrivo di nuovi migranti dall'Italia. Cosa vengono a fare? Ma normalmente sono persone che vengono o per motivi personali oppure sono professionisti che sono stati assunti proprio da imprese turche come dirigenti e manager. In più poi c'è un'altra categoria che sono tutti gli insegnanti di lingua. In qualche modo per loro la Turchia è una terra delle opportunità, vedono delle prospettive? Assolutamente sì, anche perché comunque è un paese che economicamente sta crescendo. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.nuovolevantino.it. Un motivo per restare o tornare. Interessante iniziativa della provincia di Trento che con il progetto Modis ha inviato 90 disoccupati in 4 paesi europei per un periodo di 6 settimane per un'esperienza di formazione e tirocinio all'estero. A 5 mesi dalla chiusura del progetto il 79% di loro ha trovato un impiego. Sempre la provincia di Trento ha presentato Matching Fund, strumento innovativo di finanziamento che punta a promuovere l'innovazione con la concessione di un contributo pubblico pari all'ammontare dell'investimento privato ottenuto da una startup. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava e aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Give Back, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre, tempo di give back per i giovani italiani espatriati, imprenditori e non. In un momento così cruciale per il paese, quali possibili contributi pensate di dare all'Italia per far ripartire l'economia e ricominciare, ma soprattutto, se li merita, per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.